sai dov'è Pardo, io lo conosco, è sullo yacht di Briatore con la Gregoracci che gli porta un cocktail. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ciao a tutti, è di Giorgio De Luca il nostro autore, di Gianmarco Ferronato in regia, di Giovanni Melchiori in redazione. L'Italia è piena di turisti in questo momento, un po' per caso, un po' no. Salà a Roma, abbiamo detto ieri, magari si può fare qualche corsetta al parco di Villa Borghese, certamente non può essere presentato in giallorosso, non può allenarsi con la squadra. Situazione meno complicata, ma al momento si tratta di una storia di turismo, anche in questo caso quella di Jovetic. Non è ancora arrivato il transfer dal Manchester City, tutti in attesa, e intanto Jovetic sta in albergo, al massimo va a passeggiare in via Monte Napoleone, cosa che è solito fare anche un altro turista affatto per caso che si chiama Mr. B. È a Milano, e allora tutte le volte che passa di qui noi passiamo da Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore, perché come lui nessuno mai. Ciao Marco. Ciao, buon pomeriggio Carlo. Ciao. Abbiamo allora letto le notizie, questo pranzo che ieri è durato fino alla merenda, perché è durato oltre 4 ore. Abbiamo letto sui giornali che nei prossimi giorni verrà firmato questo patto vincolante con alte penali in caso di rottura. Abbiamo letto che verso la fine dell'estate, una non meglio precisata fine dell'estate, non si sa se sostizio, fine agosto, dopo Ferragosto, non è che o ai primi temporali, verrà firmato il contratto definitivo. Abbiamo letto anche che Mr. B ha ascoltato con attenzione Barbara Berlusconi sul fronte stadio, questione da approfondire magari anche oggi. Sai qualcos'altro, Marco? Sì, no, la sintesi coglie sostanzialmente quello che è accaduto. L'incontro di ieri, diciamo, serviva semplicemente per ribadire la volontà di concludere quello che è stato concordato circa 2 mesi fa. Dopodiché la palla passa agli avvocati, agli studi legali. Quello che si è deciso è appunto di non restare incollati, diciamo, a delle scadenze troppo rigide, perché ci si è accorti in queste settimane che le questioni tecnico-giuridiche da risolvere sono ancora molte, fermo restando la volontà di chiudere il deal. Sì. Per cui non c'è una tempistica prefissata, si andrà avanti. Di fatto cosa accadrà? Che di volta in volta che le due parti, in questo senso intendo i pool di consulenti che assistono le due parti, troveranno qualche difficoltà su qualche aspetto, dovranno interpellare il compratore e l'acquirente perché prendano, diciamo, la decisione. Ovviamente a quel punto uno dei due dovrà ricedere dalla sua posizione. Ascolta, però questo patto verrà firmato, no? Questo patto vincolante a concludere l'accordo con penali previste, milionarie. Sì, ma sulle penali, sai, non credo ci sia nemmeno tanto bisogno di scriverle, perché c'è il reciproco interesse, la reciproca volontà di chiudere. C'era ancora in questi giorni, insomma, qualche resistenza in più da parte di Barbara Berlusconi, ma appunto perché lei tiene molto al progetto stadio, e in questo senso Mr. B si è dichiarato appunto disponibile ad una chiacchierata, un tête à tête, per capire meglio cosa si tratta, soprattutto per capire quelli che possono essere i tempi burocratici per arrivare all'autorizzazione definitiva, eventualmente alla costruzione, i costi. E questo in qualche modo ha rasserenato l'amministratore delegato del Milan per l'area, diciamo, commerciale, per l'area economica, il che dovrebbe aver spianato ulteriormente la strada verso la conclusione. Però appunto di date gli avvocati non ne fissano, perché c'è da definire chi per esempio metterà più azioni al momento delle quotazioni, le clausole eventuali call and put, cioè se io ti posso vendere entro una certa data comunque la mia quota e tu sei obbligato a comprarla o viceversa. Tutte questioni, ripeto, che si intende risolvere, ma per le quali poi bisognerà avere di volta in volta l'ok di Berlusconi, della Fininvest o di Mr. B e della sua accordata. C'è un aspetto interessante, sono ancora qualche secondo, che riguarda Doyen, perché sappiamo insomma che al di là poi delle dichiarazioni ufficiali, comunque la Doyen fa da consulente per Mr. B e ha comunque fatto da consulente per il mercato, al di là delle difficoltà iniziali, e sappiamo tutti cosa è accaduto un certo sabato. C'era la volontà in questo momento di Doyen magari anche di pensare alla possibilità di entrare direttamente nel capitale del Milan, ma qui si deve scontrare con un orientamento della FIFA che vorrebbe, dopo aver vietato l'acquisto proprio di TPO, quindi l'acquisto del cartellino dei giocatori, vietare anche ai fondi la possibilità di entrare nelle società. Ecco, il divieto non è stato ancora in qualche modo formalizzato, però appunto in sede FIFA si sta pensando a questo, soprattutto poi se dovesse arrivare Platini alla presidenza. Sappiamo che Platini è sempre dichiarato contrario ai fondi, alle TPO, sembra scontato che si arrivi a quello, e quindi c'è questo ulteriore problema insomma che andrà definito. Certo, un'ultima cosa Marco che i milanisti vorranno sapere, immagino, 800 24 00 24 è il numero verde, tutto questo tira e molla destinato a concludersi a una non meglio precisata fine dell'estate, influirà in qualche modo sul mercato oppure no? No, credo assolutamente di no, perché c'è la volontà, ripeto, delle parti di chiudere i soldi al venditore Fininvest, arriveranno, e quindi l'impegno che si era assunto di investire un centinaio di milioni, se non qualcosa in più, se si presenteranno le occasioni giuste sul mercato per arrivare subito in Champions, che è l'elemento essenziale di tutto il patto, resta fermo, e quindi non si faranno mosse diverse semplicemente perché il deal diciamo non si è concluso definitivamente entro questa settimana. Grazie Marco Belinazzo. Grazie a voi e a presto. Al più presto, Marco Belinazzo del Sole 24 Ore. 800 24 00 24, un sacco di cose da dirvi, compreso il fatto che ad esempio il Milan sta anche giocando da circa un quarto d'ora in campo con il Real Madrid dall'altra parte del mondo come al solito, risultato è 0-0, se volete anche la formazione ve la dico, oggi erano attesi Bacca e Luis Adriano, titolari non ci sono, perché giocano, sono stati confermati Niang e Cerci in attacco da Mihajlovic, quindi Diego Lopez, De Sciglio, Alex ed Eli, giovane difensore l'anno scorso in prestito all'Avellino se non ricordo male, quindi Bertolacci, Antonelli, De Jong, Poli, Suso e appunto Niang e Cerci, 0-0 dopo 11 minuti di gioco per il Milan, che invece non quello societario che verrà, ma quello del campo che sta giocando in questo momento. Poi dicevo, un sacco di cose da dirvi, ho un angolo dei casini che oggi vorrei inaugurare che è nutritissimo, ho diverse voci da farvi ascoltare, poi voglio anche parlare una questione che ci ha appassionato abbastanza nei giorni scorsi, che è giunta ad una conclusione, e cioè Berruto ha dato le dimissioni dalla nazionale di pallavolo, quindi Mauro Berruto, dimissioni accolte, non è più allenatore della nazionale di pallavolo. Il casus belli, lo conoscete, i quattro giocatori allontanati alla vigilia delle finali di Euroleague a Rio, il gran casino che ne è seguito, social network compresi, e dunque in un momento molto critico, perché a settembre c'è la Coppa del Mondo che qualifica per le Olimpiadi, a ottobre ci sono gli europei, quindi in un momento molto delicato, in questo momento la nazionale italiana di pallavolo non ha un allenatore per questa ragione. Molti avevano detto, ma facessero così tutti quanti, anche quelli del calcio, anche quelli del basket, del nuoto, della pallanuoto, di tutti gli sport, se qualcuno si comporta male torna a casa. Io non sono così d'accordo. 800 24 00 24, numero verde, traffico. Allora, gente Pardo per la radio sono come Mogol e Battisti per le canzoni, solo che Mogol e Battisti c'erano sempre tutti e due, no? Quindi Pardo non c'è mai. Tutti tutti convocati. Tutti convocati. Paolo Dybala battere il calcio d'angolo, pallone tagliato, il colpo in testa di Pogba, la Juventus è già in vantaggio al quarto minuto con Paul Pogba. A girarsi Buxa, poi buono lo scambio con Nazario, Buxa, e c'è il pareggio del Lecchia all'82esimo minuto. Può andare subito al cross Marzec a cercare Mandžukić, la palla è precisa, Mandžukić, la finta Mandžukić, e torna in vantaggio la Juventus proprio al 90esimo minuto. Una grande giocata da attaccante di razza di Mario Mandžukić. Oggi credo che non avesse un atteggiamento giusto, era un po' nervoso e l'ho tolto dopo mezz'ora, dopo che era entrato. Bisogna scordarci frettolosamente quello che la squadra ha fatto l'anno scorso. Una tirata d'orecchie per Morata? No, è in generale, non è una tirata d'orecchie. Ci sono magari delle giornate in cui uno non gli vanno bene le cose, si nervosisce, allora magari si evitano anche infortuni, uno lo toglie dal campo, poi dopo è rientrato in panchina, ha fatto allenamento insieme a tutti gli altri. Io credo che l'anno scorso, gli ultimi 4 anni, ma credo soprattutto l'anno scorso, vada dimenticato in fretta se vogliamo confermarci a lottare al vertice, altrimenti se pensiamo perché l'anno scorso abbiamo fatto questa cosa, questa straordinaria stagione, quest'anno c'è tutto dovuto, bisogna dimenticarselo subito in fretta, altrimenti ci facciamo del male. Dunque, angolo di Casini che apriamo così con l'arrabbiatura di Allegri dopo la partita con il Lecchia, vinta in Polonia per 2-1, avete sentito anche il racconto dei gol, ma soprattutto c'è stato Morata che è stato tolto dopo 25 minuti perché per le ragioni che Allegri ha enunciato. Certo, non è normale togliere il tuo centravanti titolare dopo 25 minuti che è in campo, insieme a diversi ascoltatori che sono Enrico da Roma, Pasquale della provincia di Foggia, Marco da Milano, vedo anche un sospetto Pierluigi da Mare. Sì, buonasera, Pierluigi da Porto Venere, buongiorno, come va? Volevo fare una domanda sul Doria che stasera esordisce contro i Voivodi. Sì. Sto ascoltando tutta la puntata, ho chiamato l'800-400-4004, volevo fare questo scherzo, poi però gli ho detto non dite Mare, perché Mare si capisce, no? Un sospetto Pierluigi da Mare? Sì, hai capito, da Mare. Come va? Benissimo, tu? Beh, siamo gli ascoltatori? Sì, Enrico da Roma, Pasquale da provincia di Foggia, Marco da Milano, poi ti inauguro l'angolo dei Casini, anzi l'ha già inaugurato Allegri con Morata, eccetera, eccetera, poi ne parliamo. Avviso ai naviganti, per rimanere in tema marino, sì. Avviso ai naviganti, la cosa più normale del mondo e forse anche più sana del mondo. Il calcio è liquido, appunto, si resetta di settimana in settimana, di partita in partita, di stagione in stagione, quindi evidentemente Allegri ha visto un po' di sufficienza nell'approccio di Morata in particolare, della squadra in generale. Ma le dichiarazioni, quelle sul fatto che la Juve non è favorita, sono quelle che sono più interessanti, perché comunque traspare una certa voglia di dare questo messaggio alla squadra e al resto del mondo, cioè Allegri non si sente il favorito di questo campionato e oppure si sente ma non lo vuole dire o non lo può dire o gli fa gioco non dirlo, perché gli fa sicuramente gioco non dirlo, ma secondo me è un messaggio alla società che qualcosa dovrà fare questa settimana, è un messaggio alla squadra che si deve impegnare di più, è un messaggio all'ambiente e chiaramente dopo una stagione eccezionale come quella dell'anno scorso questo messaggio se lo può strapermettere. Certamente. Enrico Roma, buongiorno. Buongiorno. Dica. Allora, intanto ringrazio per la gradita convocazione. Grazie a lei. Volevo, come dire, esprimere il mio compiacimento per le tardive dimissioni di Mister Berruto, che potevano arrivare a mio avviso immediatamente dopo la fine della World League, senza farci passare questo weekend con la sua presenza. Motivo perché nel momento in cui hai perso il controllo della squadra, perché se succedono determinate cose vuol dire che hai perso il controllo della squadra e non di un paio di elementi, e poi finisce così male, perché è finita male la Final Six. Vero che non siamo stati fortunatissimi, però non è che uno deve contare sulla fortuna per vincere una competizione agonistica. Secondo me le le dimissioni erano dovute il giorno dopo, e non ieri o l'altro ieri quando sono arrivate. Sì. Poi io diciamo argomento da dibattere, da discutere, assolutamente, perché assolutamente. Non, io dico subito che non tutti saranno d'accordo. Comunque, poi altra cosa invece, una domanda a voi che siete insomma gli esperti dell'ambito dello sport, chi prevedete che sarà il successore, cioè chi viene adesso, perché effettivamente il problema c'è. Sì. Nel senso, siamo senza allenatore, abbiamo dei giocatori, alcuni che hanno fatto, uso un termine romanesco, delle cappellate, hanno chiesto scusa, per carità di Dio, però cose che non si dovevano fare, e io qui sono di quelli che è giusto mandarli a casa, perché la pallavolo non è il calcio, così come non è altri sport, e lo dico da pallavolista, e quindi mi piace anche conoscere l'opinione di Mister Genta su quelli che sono le, come dire, provvedimenti disciplinari che è giusto che prendano allenatori in questi casi. Ma guardi, io l'ho già detto, non ritratto, cioè secondo me, dato che stiamo parlando di professionismo al massimo livello, non è sembrata una grande idea quella di cacciare a casa quattro giocatori importanti alla vigilia, compreso il capitano, compreso Zaitsev, che è la stella della squadra. Non mi è sembrata è stata una decisione molto rigorosa, molto coraggiosa, però forse un po' eccessiva. Considerando che siamo alla vigilia della Coppa del Mondo in Giappone, che parte l'8 di settembre, poi ci saranno gli europei ad ottobre, non c'è tempo, con ogni probabilità dovrebbe essere il nuovo CT, dovrebbe essere Blengini, che era il vice di Berruto, però anche qui ci sono dei problemi di carattere contrattuale, essendo legato con un club e non essendo previsto il doppio incarico. Quindi dopodomani doveva incominciare la rettura Cavalese, ovviamente tutto congelato, e mi sembra che ci sia un discreto casino, visto che di questo stiamo parlando. Carlo, dimmi. Due cose da profano. Una, se c'è stato un problema con Berruto, c'è stato probabilmente anche col suo vice. Questa scelta, non la capisco, ripeto, da profano della pallavolo. Alle 14.40 ne parliamo con Montali, per me dire che le dimissioni comunque in questo paese sono sempre certo, non scontato, e secondo me da sottolineare in positivo. Poi probabilmente ragione ascoltatore, poteva arrivare qualche giorno in anticipo, visto che il calendario è particolarmente fitto e ogni ora può essere importante per fare chiarezza. Certo. Però sono arrivate, e per me le dimissioni, che lo ricordiamo, significa la rinuncia a un determinato tipo di emolumento che viene incassato, sono sempre un atto nobile. Punto. Ascoltati, prima di Pasquale dalla provincia di Foggia, che magari è al mare e ci sta ascoltando dalla spiaggia, ti faccio sentire questo arrivo di Salah a Roma, perché abbiamo bisogno di qualche consiglio da te, Romano. Insomma, sciarpa giallorossa, siamo venuti fin qua per veder segnare Salah, magari non all'aeroporto, magari in campo tra qualche tempo. La Fiorentina dice: ma che volete, Salah è un nostro giocatore, l'affare è di là da venire. Dove lo mandiamo Salah a Roma a fare il turista? Dove lo mandiamo? Villa Borghese a correre? Innanzitutto diciamo che Salah ieri è l'unico che è riuscito a terra da Cincino, quindi insomma questo è già un buon auspicio per la stagione di distanza, ma la drammaticità, e c'è poco da ridere, insomma, dello scalo romano. E dove lo mandiamo? Ma io lo manderei, lui giocherà a Trigoria, quindi i giocatori della Roma vanno a vivere tutti in zona Axa, Casal Palocco, oppure comunque anche in centro, ma nella parte chiusa del centro, quindi Trastevere. Ecco, io gli consiglierei Testaccio. Consiglierei un bello appartamento a Testaccio, perché proprio lì c'è la percezione, no, del popolo, la parte romanista, ovviamente ci sono anche di razziare Testaccio, ma insomma del cuore pulsante, però un quartiere storicamente giallorosso. E secondo me, insomma, uno come lui, che comunque adesso ha detto di tutto, ha avuto anche delle dimostrazioni di sensibilità, sappiamo che quel numero 74 è un ricordo della drammatica tragedia di Port Said, insomma, secondo me, se gli piace impastarsi un po' con la città e con le sue, non è facile. Allora, adesso, visto che ha tempo, può andare a vedere qualche casa a Testaccio e trovare qualcosa che sia di suo gradimento. Sarebbe una scelta straordinaria, Testaccio. poi parliamo anche della Lazio, perché nell'angolo dei casini c'è finita anche la Lazio, e Giorgio De Luca sostiene che potrebbe incasinarsi ancora di più la vita nel caso in cui, come leggo da qualche parte oggi, decidesse di prendere Balotelli. Questa cosa c'è da 20 giorni, Braio l'ha parlato con lo titolo, ricordo dove l'avevo detto, spero a Radio 24, ma Balotelli alla Lazio è una suggestione vera, secondo me, perché i rapporti fra Raiola e lo titolo ci sono stati, e poi comunque Balotelli è una cosa, è Bologna, poi, voglio dire, ma leggo, per le cifre che leggo lo potresti ingaggiare anche tu, perché per le cifre che leggo sarebbero 2 milioni per il prestito dal Liverpool, il quale pagherebbe il 70% dei 6 milioni di ingaggio, quindi la Lazio con un 2+2 si porta a casa Mario Balotelli. Secondo me non sarebbe una brutta cosa, non sarebbe una brutta idea per la Lazio. Ovviamente devi avere voglia di avere a che fare con uno così. Pasquale, buongiorno. Quando buon pomeriggio, sto Pasquale dal Gargano. Dal Gargano, quindi al mare, avevo ragione. Dal Gargano, soprattutto Vico del Gargano. Beato lei. Dica. Io ho due notizie che voglio sapere. Allora, la prima, in tempo reale, se mi potete dire il risultato di Milan-Real Madrid che si sta facendo in Cina. 0-0 al 27esimo del primo tempo. E poi la seconda notizia è questa: il primo impegno ufficiale di Mihajlovic, quale sarà in Coppa Italia? Primo impegno ufficiale di Mihajlovic in Coppa Italia, in questo momento confesso di non saperlo, ma non si sa ancora, quindi bisogna aspettare un po'. Intanto si giocano amichevoli, mi dà un'occhiata allo stadio, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, primo impegno ufficiale di Coppa Italia, lo scopriremo vivendo. Mi dici anche il Mittel, anzi, oddio, adesso ho parito di calcio, ho detto Mittel, il Mittel non c'è più da 20 anni. E le borse come vanno? Sì, te lo dico, aspetta un attimo. Il signor Pardo è pregato di cambiare telefono. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Che dire, arrieccici. Tutti convocati. Chiede deve del tiro libre. Atención. Le va a pegar Tevez. Va Tevez. Falla, Boca 3, Banfield 0, Tevez de tiro libre. Tevez anche in Argentina continua a fare quello che ha sempre fatto, cioè gol, grandissimo gol di Carlitos contro il Banfield. Allora, siamo come un jukebox, caro Pardo. Il Milan in Coppa Italia gioca il 15 agosto contro probabilmente il Perugia a San Siro. Tra Perugia, Regina e Delta Porto Tolle, Reggiana Perugia, Delta Porto Tolle, ma diciamo che Perugia è la più accreditata, ovviamente. Diciamo che è la più accreditata. Un bel Milan Perugia, fra l'altro, ricorderebbe un'epica lotta scudetto della fine anni 70. 79, se non ricordo male. Credo sia 78-79. Sì, 78-79. Sì, Perugia secondo. Mm-hmm. Perugia di Paolo Rossi. Sì. Proprio quella. Ma ne anche un altro. C'erano cioè, vari incroci. Milan vinse lo scudetto con Zaccheroni a Perugia. Nel 99. Maggio 99. Ma quante ne sappiamo? Marco Siracusa, buongiorno. Marco. Ortigia, Marco, pronto, Fontane Bianche? Ortigia, non c'è il numero? L'ascoltatore non è al momento raggiungibile. E allora andiamo da Andrei, provincia di Ravenna. Buongiorno. Buongiorno a voi, signori. Dica. No, volevo parlare del mercato della Lazio. Permette che comunque sono tifoso juventino, quindi io sono contento qui della mia Juve, va benissimo così. Adesso vediamo chi arriva. Però è più forse un Draxler, un Isco che Gozze, che secondo me forse su FIFA e Pardo lo sa bene. Più che altro volevo parlare della Lazio del Torino, che secondo me sta facendo un te, anche se non ha preso ancora nessuno, a parte tipo qualche giovane, sono riusciti a trattenere i vari Felipe Anderson, Candreva, comunque i giocatori più forti, quindi e poi il Torino secondo me è la nuova Udinese, devono prendere solo Hernandez o l'altro Belotti, quindi sì un attaccante adesso, arriverà. Balotelli a parte, secondo me la Lazio come forza in campionato e tra i primi tre, sta facendo delle cose molto intelligenti e molto interessanti, soprattutto sul fronte giovani la Lazio. Il problema, e qui torniamo all'angolo dei Casini, è che non astruccia proprio in questo periodo. Ieri ha preso 3 gol dal Mainz, quarta figuraccia, 10 gol presi in queste prime uscite. E il problema vero è che tra poco si fa sul serio con il preliminare di Champions League, che fa tutta la differenza del mondo. C'è da essere preoccupati, secondo te, Pierluigi? Ma guarda, prima di Mainz avrei detto di no, nel senso che poi alla fine possono essere normali e fisiologiche le sconfitte in questo momento del precampionato, però se c'è una squadra che invece in realtà deve essere in questo momento, oltre alla Juve, ma assolutamente tonica, è proprio l'Asso, oltre alla Samp, che gioca il primo impegno ufficiale della stagione. E quindi comincia a essere un po' inquietante tutto questo. Poi c'è questo caso che Candreva legato alla fascia da capitano, che pare che può essere una distrazione, un disturbo, un motivo di non lo so. Il feeling per ora non c'è, il fluido non c'è, quello che si era visto bellissimo nella seconda parte della passata stagione. Non manca moltissimo la Supercoppa. Esatto. E poi c'è il preliminare. Io credo che il vero obiettivo, con tutto il rispetto per la Supercoppa, sia il preliminare. La Supercoppa chiaramente ti dà un trofeo. Quella è la montagna da scalare, che qui sotto c'è l'oro, come sai benissimo. Quindi sono sicuro che in caso di qualificazione poi lo Tito farebbe anche un investimento. In generale sono d'accordo, che la Lazio sta facendo cose importanti, sta avendo un progetto secondo me adeguato a una squadra giovane molto forte. Tra l'altro in finale, il discorso ascoltatore, finale scudetto persa di rigori contro il Torino, e anche il Toro veramente ormai insomma l'hanno sistemato alla grandissima. Sono due realtà solide. C'è Giampaolo Montali, sai? Certo, è chiaro. Buongiorno Montali. Buongiorno signori. Buongiorno. Prossimo coach della nazionale di volley? Ah, no, io ho già dato. Ha già dato. Tanto, magari c'era notizia, magari c'era scoop. Giampaolo, questa storia di Berruto, che lettura dai di questa vicenda? Ma guarda, io come voi sapete sono uscito nel 2006 dopo la medaglia d'oro vinta nazionale all'europeo, che tra l'altro ahimè è l'ultima medaglia d'oro che l'Italia ha vinto, quindi sono passati un po' di tanti anni. Non ho più, anche se Berruto è stato mio assistente per tanti anni, non ho più avuto tantissimi contatti dal punto di vista proprio sportivo e tecnico. Soprattutto ultimamente anche con Mauro non ho potuto parlare di questo aspetto qua. Di sicuro, conoscendo lui e vedendo quello che è successo, non mi sono meravigliato di questa cosa qua, anzi devo essere sincero. Io mi aspettavo che le dimissioni le desse magari anche un po' prima, perché dopo il mondiale, dopo il 13° posto, sono stati 2 anni molto difficili e travagliati, con fortissime criticità all'interno della squadra nazionale. E purtroppo, sai cosa c'è? La nazionale di pallavolo è come quando parliamo nel calcio del Brasile, cioè che ha vinto tanto è destinata a giocare per vincere. Quindi se non arrivi primo, tutti gli altri posti sono secondari. Certo. Quindi, ma a proposito del casus belli, tu come la vedi? Cioè, io non sono molto convinto, si è fatto un sacco di demagogia, molti hanno chiamato, sono intervenuti dicendo ma facessero così anche quelli del calcio, facessero così anche quelli degli altri sport, non si comportano bene, sono professionisti e quindi prendono l'aereo e vadano a casa. Io la leggerei in una maniera un po' diversa, cioè alla vigilia, siamo proprio perché professionisti, non si gioca al torneo del quartiere, io credo ci siano responsabilità nei confronti del movimento della pallavolo, dei tifosi, non la faccio tanto lunga, del gruppo che è stato lì, quindi non sono così convinto dell'opportunità di questa decisione. Ma guarda, secondo me il problema sono d'accordo con te in parte, però è un altro, perché in realtà se ci mettiamo qua vi racconto gli aneddoti della pallavolo degli ultimi 20 anni, ci sono degli episodi che sono accaduti in nazionale ben più gravi di questo, di arrivare in ritardo un'ora al ritiro come quello successo in Brasile. Ci sono episodi molto più gravi che sono stati gestiti in modo diverso. Il problema secondo me non è stato tanto con quell'episodio, perché per quell'episodio in particolar modo il giorno dopo i ragazzi erano tutti insieme, sono stati insieme a pranzo, hanno fatto con la squadra, che è stato il confronto successivo con l'allenatore, che probabilmente ha creato delle tensioni tra l'allenatore e questi giocatori, in cui probabilmente Berruto si è visto sicuramente attaccato a livello personale e ha capito che da parte di alcuni di quegli uomini non c'erano più le condizioni per poter fare il lavoro e rispettare il ruolo che devono rispettare. Quindi la scelta è stata dei rapporti, non è stato tanto l'episodio in sé, perché nei tre anni precedenti, come ha detto anche Mauro, ho letto in intervista, sono successe queste cose e sono state gestite in un altro modo. È successo qualcosa di personale, ma è qualcosa che è successo da più tempo, ed è per questo che secondo me questo non è altro che così la normale, probabilmente, e anche molto onesta presa di coscienza di un allenatore che ha visto che evidentemente attaccato probabilmente dall'interno, ma soprattutto dall'esterno, ha preso questa decisione. Scusatemi se voglio c'è una cosa che voglio sottolineare, nella quale sono molto d'accordo con Berruto, perché lui dice che a un certo punto, quando si è visto che anche veniva attaccato dal suo mondo, cioè dalla Lega, del presidente, dal direttore generale della Lega, e soprattutto questa cosa qua è sicuramente una cosa che non gli ha fatto piacere, però è una cosa questa che si è ripetuta, è storica, perché io mi ricordo che quando vinco l'Europeo a Roma nel 2006, alla prima intervista che faccio, nonostante avessi vinto la medaglia d'oro, sono stato attaccato io per la Lega Pallavolo, perché volevo più tempo per preparare la squadra per i futuri mondiali, per programmare. Quindi questa è una cosa ciclica, perché se noi guardiamo l'allenatore nazionale di calcio ha le stesse problematiche certo, di altre nazionali. Certo, è quello che abbiamo detto molte volte, quindi parla, hai capito, Montari è attaccato, no, capito, siamo, come dice Tavecchio, siamo litigiosi dentro, nell'anima, nel DNA. Dimmi. Ho citato anche Scogliato dei Tacchini l'altro giorno, cioè comunque poi alla fine io credo che la gestione di un gruppo, Montali va in giro per l'Italia a fare conferenze, questo è con i risultati che ha ottenuto straordinari da CT e da coach, la gestione di un gruppo non ha una regola fissa. Non mi sorprende sentire che ci siano stati episodi ben più gravi negli anni in nazionale, è la gestione degli episodi. Abbiamo richiamato l'altro giorno l'esempio Capello Cassano nei primi anni della carriera di Cassano, quando veramente era ingestibile ed era un mix di bastone e carota, che però deve avere come finalità sempre il risultato della squadra. Non credo che esista una regola assoluta, credo che esistano delle regole che il gruppo si deve dare, e poi però all'interno delle regole esiste anche la possibilità di sbarigliare, di dare in qualche caso delle decisioni, perché altrimenti finisce, cioè se ha ogni errore mandi a casa uno, poi però giocano quelli meno bravi, molto banalmente. Sono assolutamente d'accordo, scusa se intervengo Pier, sono assolutamente d'accordo con te, perché il problema per me non sta nel rispetto della regola. Perché le regole in qualunque tipo di organizzazione, qualunque tipo di disciplina ci sono. Il problema per me non è la regola, ma è la condivisione della regola, che è una cosa diversa. Perché le regole ogni tanto si possono anche eludere. Anzi, un allenatore che è abituato a giocare per vincere, il fatto che qualcuno qualche volta non rispetti le regole serve per dare degli esempi, serve per creare un clima particolare, per mettere e togliere tensione. Però il problema è proprio questo, bisogna essere abituati a governare squadre che giocano per vincere. Quindi la cosa che mi interessa dell'atleta è capire che ci sia la condivisione di una regola. Poi uno può arrivare in ritardo, può sbagliare a vestirsi, fare una cosa che non doveva fare. Però la cosa importante è la condivisione, è che io credo che in un certo momento probabilmente è successo qualche cosa in nazionale dove qualcuno non aveva più la volontà di condividere le regole che venivano date, e questo sicuramente ha creato quella situazione che ha portato Berruto dalle dimissioni. Sì, quindi praticamente il gruppo gli si è rivoltato contro, Giampaolo. Cioè non aveva più, l'appeal necessario sul gruppo. Questo non lo so, perché bisogna essere lì, essere presenti, la sensazione è quella. Come sono la realtà. Di sicuro quello che emerge dall'esterno era una situazione che si erano create delle forti criticità, che in una squadra dove, a mio avviso, ma anche detto di molti, è una squadra che se vince la Francia, se vincono certe nazionali come l'Argentina, so che ha vinto i panamericani, la squadra nazionale è una squadra che anche deve giocare per vincere, quindi deve vincere. Forse probabilmente si sono create delle situazioni tali dove non c'era più la assicurare tranquillità da parte di tutti per poter continuare ad andare avanti. Grazie Giampaolo Montali. Ciao. Ciao. Ciao, grazie a voi. Ciao, coach. Ciao Piero, ciao. Buon lavoro. Ciao. Allora ci fermiamo per il traffico e poi torniamo, diversi ascoltatori e altre cose da raccontarvi. Io sono qui che lavoro, voi notoriamente delle radio che vedete il bel mondo siete lì in spiaggia, beati voi, cosa volete che vedete? Bravo. Tutti convocati. Tutti convocati. E torniamo con i nostri convocati, sempre angolo del casino. Hai sentito cosa ha detto Ibra? Questo può essere un problema per il Milan. Sì, sì. Felice di restare. Devo dire subito che Nicola Loggero mi ha mandato un messaggio, lo saluto dicendo giustamente, beccando mio epic fail, che Paolo Rossi è arrivato l'anno dopo, era a Vicenza, quindi non c'entra niente con quel Perugia lì, ma insomma sai, qua. Il sole, proprio 5 anni, 4. È arrivato l'anno dopo, allora provo a ricordare a memoria, gli attaccanti potevano essere Casars e Speggiorin. Vediamo se... Sì, in porta c'era Malizia, no? C'era Frosio che era il capitano, c'era Dalla Macchia. Luigi Frosio, fra l'altro, vero? Sì. Anche Luigi Frosio, mi era simpatico già per quel nome, capito? Noi per Luigi siamo pochi, quindi ci facciamo per amicizia e compagnia tra di noi. Insomma, poi ci chiamano tutti Gianluigi, non so perché, deve essere l'effetto Buffon. Ma sai la quantità di gente che si chiama Gianluigi? Vabbè, sì. Detto questo, Ibra che ha detto felice di rimanere a Parigi, ancora un anno di contratto, aveva appena battuto il Manchester United in amichevole, peraltro segnando. A proposito di amichevoli, 0-0 tra Milan e Reale, siamo alla fine del primo tempo. Ha detto queste cose, quindi rimarrò a Parigi ancora un anno e poi vado in America, grosso modo. L'MSL mi interessa, fine contratto deciderò dove andare. Quindi in parte sembra aver sbattuto la porta in faccia al Milan, ma questo lo scopriremo. Cazzo, guardi! No, secondo me schermaglie ancora, schermaglie. Sì, sì. Io sono ancora convinto che possa arrivare. Fra l'altro ieri ho trovato scritto su un sito che avrei detto che con Ibra il Milan è da scudetto e che ha completamente colpo. In realtà nel titolo c'era scritta questa cosa, poi nel pezzo c'era scritto il contrario. Io penso, ribadisco che Ibra è importantissimo, secondo me serve al Milan, servirebbe anche alla Roma, sarebbe servito al Napoli in caso di partenza di Higuaín, serve a tutte le squadre che hanno una distanza da colmare, e quindi da questo punto di vista secondo me serve più alle inseguitrici che alla Juve, che secondo me rimane la favorita. E però insomma che il Milan semplicemente aggiungendo Ibra sia da scudetto, io non lo penso. Praticamente non l'ho mai detto. Vincenzo D'Ancona, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie della convocazione. Grazie a lei. Io vorrei mi ricollego un pochettino a quanto detto prima. Faccio tre nomi: Barotelli, Cassano e Ibrahimovic. Sembra che tutte quante le squadre abbiano, tutti quanti gli allenatori, tutti quanti i presidenti abbiano, come ha detto Ferrero, paura dei remake di personaggi anche problematici, però diciamo genio e scrittoratezza. Prima con chi è intervenuto prima si parlavano di regole del team, regole di squadra, sì. Ma non sarebbe molto più semplice, lo dico da chi il calcio lo guarda con passione ma anche con leggerezza, sì, citando sconfitte e vittorie. Sì. Non è più semplice, magari a chi è genio scrittoratezza, lasciarlo un pochettino libero, perché volenti o nolenti Cassano a Genova, prima che esplodesse con Verrone, aveva fatto un bel campionato, portava avanti la squadra. Non è impossibile. Cosa intende per un pochino libero? Di fare quello che vuole in campo e fuori? Ma guardarlo con occhio critico, ma accettando che chi ha tanto talento sui piedi forse ce n'ha meno in testa. E poi cosa dici, Pardo? Io dico di sì, è chiaro che è importante che giochino bene anche gli altri 10, che non siano arrabbiati gli altri 10. Questo cattivo esempio non crei problemi agli altri 10, tutto qui. Poi nello specifico io sono d'accordo, ma anche perché adesso faccio 20 secondi più in stanza, è esistito un Cassano assolutamente inaccettabile, che era forse quello con più talento, che era quello dei primi anni, dove faceva delle cose che erano fuori dal mondo, con Capello che lo proteggeva, lo bastonava. Ma negli ultimi anni sinceramente Cassano ha litigato per un motivo occasionale con Garrone, è andato al Milan, ha fatto pace, poi con il presidente Porto, cioè però è una storia vecchissima. Parliamo, cioè le stravaganze di Cassano negli ultimi anni sono state stravaganze a livello contrattuale, di qualche dichiarazione, ma dal punto di vista del comportamento in campo, a Parma ha fatto bene, all'Inter ha fatto, secondo me, abbastanza bene, una stagione da 10 gol, se non sbaglio, comunque una stagione discreta, in una, soprattutto nella prima parte con Stramaccioni, le cose andavano molto bene, insomma, io ti dico, francamente, non mi sembra questo caso clinico. No, parliamo dell'inizio della carriera, sicuramente. Era diverso. Detto questo, se non trova squadra, il motivo ci sarà. Non è chiaro. No, poi si tratta anche di... Pier, il discorso che faceva l'ascoltatore, lo lasci libero, gli dai qualcosa... gli fai qualche concessione in più rispetto ai compagni. Il problema, hai detto giustamente, è che poi devi vivere all'interno di un gruppo, quindi bisogna trovare un equilibrio molto sottile e molto delicato. Ibra di questi tre è completamente un'altra cosa. Ibra è uno che in Italia può fare la differenza, può cambiare tanto le gerarchie e gli equilibri. Cassano, secondo me, ha un sogno, per quanto praticamente impossibile da realizzare o comunque molto difficile, che è andare all'europeo, quindi se noi l'anno prossimo, se qualcuno gli darà la possibilità di fare una stagione proprio più che mai applicata e seria. Balotelli non può perso dai radar, nel senso che Balotelli poi è entrato in una crisi tecnica, secondo me, l'anno scorso. Non sono state le discoteche, il fatto che non ha giocato mai è finito per diventare una terza scelta, quindi secondo me è una situazione molto più complicata. È chiaro che con Balotelli il vantaggio è l'età, cioè, Balotelli ancora hai un orizzonte temporale anni, un orizzonte enorme, però il tempo sta scadendo anche il tempo, perché sta scadendo completamente. È per questo che delle tre scommesse mi sembra la prima, ma, è proprio la scommessa, ma sai, dipende Ibra, a questo Ibra punto Ibra un affare, a questo punto dipende soltanto da Balotelli, non dipende né da Raiola né dalla mamma, né da nessun altro, dipende soltanto da Balotelli, non dipende neanche da una questione di soldi, perché praticamente il Liverpool lo regala pagandogli il 70% dell'ingaggio. A questo punto tocca a lui trovare un posto dove mettersi in gioco totalmente, quindi il discorso che si fa può essere soltanto questo. Pier, ti saluto, ci sentiamo domani. Ciao Pierino, buongiorno. Pierluigi Pardo, alla prossima. Io ho ancora un minuto, che faccio? Parliamo con Gaetano da Catania. Gaetano, buongiorno. Buongiorno. Io mi collego a quelli che sono stati i vostri commenti relativi al gioco del calcio, che è il gioco più bello del mondo, ma da tifoso deluso, perché chiamo da Catania, desideravo il vostro parere per quanto riguarda appunto la situazione del Catania Calcio, a parte che sono stati deferiti dei vari presidenti, vicepresidenti e così via, la speranza dei tifosi catanesi è quella di vedere il Catania giocare ancora in Lega Pro o addirittura partire dai dilettanti? Insomma, si partirà dal basso, mio caro, si partirà dal basso, perché quello che è successo è stato, io credo, il peccato mortale per chi fa lo sport, per chi vive di sport, omicidio sportivo, e quindi ora vediamo innanzitutto di capire bene termini percentuali e responsabili, e poi Catania ne subirà le conseguenze, perché non vedo nulla di peggiore di quanto è stato fatto o tentato di fare con la gestione di questa situazione. Purtroppo Roberto da Verona non riesco a sentirlo, purtroppo non riesco a sentire neanche le voci dei ritiri, dove c'era Pazzini, dove c'era Maccarone, dove c'era il nuovo allenatore del Parma, altra società che riparte dalla Serie D, cioè Apolloni, ma abbiamo tempo, abbiamo giorni, sempre qui su Radio 24. Grazie Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Giovanni Melchione in redazione. Ci sentiamo domani alle 2. Ciao ragazzi. Ciao, buone vacanze, nuota anche per me, fa la paperella.